Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Battuta d'arresto per separazioni e soprattutto divorzi per la prima volta dal 95. Secondo i dati dell'Istat, nel 2012 le separazioni sono state poco più di 88.000 e i divorzi 51.300, entrambi in calo rispetto all'anno precedente. Per ogni 1.000 matrimoni si contano 311 separazioni e 174 divorzi. La durata media delle nozze, prima di decidere di prendere strade diverse, è di 16 anni per le separazioni e 19 anni per i divorzi. I matrimoni più recenti durano di meno. Confrontando le nozze celebrate nel 1985 con quelle del 2005, le unioni interrotte dopo 7 anni da una separazione sono raddoppiate, passando dal 4,5% al 9,3%. Certo, adesso tutti contenti, felici, finalmente la famiglia ha trionfato, i valori hanno trionfato, la gente non divorzia più, non si separa più, e sarà felice anche soprattutto Don Tarcisio Vicario, parroco di Cameri, che ha detto ai suoi fedeli: mi raccomando, attenzione, la convivenza, il matrimonio civile non beatificato e santificato da un rito cristiano è un peccato che dura tutta la vita, un peccato che non si estingue, e quindi naturalmente chi è sposato solo civilmente non può fare il padrino o la madrina a un bambino alla comunione, alla cresima, al battesimo. Può farlo invece un omicida. Perché? Perché l'omicidio è un peccato occasionale di cui ci si può pentire. Quindi io ammazzo uno, mi pento e poi porto la bambina a fare la prima comunione. Io vivo felicemente sposato, regolarmente coniugato da anni, no, io sono sposato veramente in chiesa, però mettiamo caso, soltanto con rito civile ho una famiglia, la mantengo, gli faccio fare una vita dignitosa, no, sono coperto dall'onta del peccato e quindi non posso portare il cresimando e tenergli la manina sulla spalla. Beh, voi direte, vedi, però la gente si sposa di più, ha capito che l'unione è il matrimoniale, il nucleo centrale della nostra società. No, la gente non si separa e non si divorzia, perché primo ci vuole troppo tempo e secondo è un lusso che non si possono permettere tutti. 800 24 00 24, secondo voi perché ci sono meno divorzi in Italia? Gianettore Gassani, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, in assoluto il più grande esperto in questioni matrimoniali che esista nel nostro paese, il tuo punto di vista su questi dati Istat? Dai titoli sembra la gente non divorzia più, che bello, siamo tornati tutti osservanti del sacro vincolo matrimoniale, ma come stanno le cose? Ma stanno in, come dice l'Istat, in buona sostanza negli ultimi periodi divorziare è diventato un lusso. E la crisi economica è quella che è, la gente preferisce vivere da separati in casa, anche odiandosi disperatamente, ma dividendo il territorio, quello della casa, con stanze separate, vacanze separate, amici separati, perché in effetti andare da un avvocato in Italia, chiedere prima la separazione... Lo dice un avvocato questo, che non è da poco che lo dica un avvocato matrimonialista. È un problema. Ecco, quindi in realtà il problema è puramente economico. Siete convinti anche voi che in realtà il vincolo matrimoniale è tenuto assieme soltanto dal fatto che sia un lusso separarsi, sposarsi? Cosa si fa? Si prendono due case, chi paga l'affitto? Lo stipendio si divide, si mantiene un'altra famiglia, ma significa che mai nessuno potrà più pensare di poter fare un'ulteriore famiglia, visto che già se ne deve mantenere una, e già è qualcosa di rischioso, di pesantissimo. È possibile che esista un così vincolante barriera a quella che dovrebbe essere una libera espressione della volontà di stare assieme? Come la pensate? 800 24 00 24. Vediamo se con l'avvocato Gassani però possiamo fare un piccolo escursus di com'è la situazione, perché l'Istat dice anche chiaramente che la crisi c'è, ma molte persone vanno all'estero, dove in Spagna ad esempio lo si fa molto prima e si può divorziare in maniera più veloce. Questo abbatte i costi di una separazione? Assolutamente sì, infatti i casi di divorzi LAM che si fanno all'estero attraverso il turismo divorzile non sono censiti dall'Istat, quindi comunque i dati diramati dall'Istat sono parziali, diciamo. Attendibili. Sono quelli che riguardano l'Italia. Senti, avvocato Gassani, ma perché non sono censiti? È qualcosa di clandestino, di illegale, o si può fare tranquillamente di andare a divorziare all'estero perché si fa prima, presto e bene, si spende meno? Si può fare tranquillamente, è legalissimo divorziare all'estero, lo dico con le leggi internazionali, E quindi ormai da 10 anni gli italiani vanno all'estero, chiedono prima la residenza attraverso l'affitto di immobili, anche di un monolocale, dopo 6 mesi possono già affidare l'incarico ad un avvocato in loco, avviare la pratica di divorzio e in pochi mesi ottenere il divorzio. Ma ci sono agenzie in Italia specializzate che permettono questa sorta di affitto virtuale per avere una residenza? Ma per la verità ci sono stati anche degli scandali, anche degli imbrogli, voglio dire, il divorzio all'estero è consentito, poi se tu hai carte false, dichiari una residenza che non hai o c'è qualcuno che ti fa avere dei documenti che non puoi avere, allora stiamo parlando di altro. Però le coppie che effettivamente sono andate all'estero hanno speso molto di meno di quello che rispetto a quello che si spende in Italia. Per esempio, andare in Romania, e ci sono qui delle agenzie che fanno solo questo, con 3.600 euro te la cavi, cioè paghi l'avvocato, paghi il volo aereo andata e ritorno, paghi l'interprete, paghi la traduzione della sentenza che poi porterai in Italia. Purché si sia d'accordo, bisogna andarci in due naturalmente. Ovviamente si tratta sempre di divorzi congiunti, tra virgolette consensuali, cioè c'è il consenso di entrambi i coniugi, ma in buona sostanza nel 65% i divorzi sono consensuali sia in Italia che all'estero, quindi tutto sommato si tratta di un grosso mercato che i romeni, gli spagnoli, i francesi, gli inglesi cercano di prendere. Praticamente loro utilizzano, strumentalizzano la nostra legge così lenta, così insopportabile per fare pubblicità e quindi incrementare. Quindi il nostro clerical pregiudizio in qualche maniera diventa fonte di guadagno per chi è ai nostri confini. Assolutamente sì, perché poi diciamo che l'Italia dal punto di vista della tutela dei diritti civili e quindi anche il diritto di divorziare è lo zimbello d'Europa, per cui prima dobbiamo fare le separazioni, ancora stiamo parlando di divorzio breve, il Senato ancora si deve pronunciare, anche se è soddisfacente ciò che è successo alla Camera, poi c'è il divorzio, quindi altra procedura, altra parcella per l'avvocato, e lo dico contro gli interessi della tua categoria, certo. La dico, veramente in Italia tutto è così complicato, bisogna semplificare. E anche i romeni sono riusciti, con una grande tradizione giuridica che hanno, a fare prima degli spagnoli, a fare prima degli inglesi, cioè hanno capito che bisogna fare presto, perché l'unico modo anche per bloccare la violenza è anche quella, è anche il sistema di fare presto, perché la gente quando è sotto processo per anni comincia a odiarsi, cominciano poi situazioni irrimediabili, quindi credo che fondamentalmente i divorzi all'estero diventeranno sempre di più se l'Italia non mette mano al diritto di famiglia. Sentiamo questo. Antonello, primo ascoltatore, 800 24 00 24. Antonello. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, io vi ascolto sempre, complimenti, ma a proposito di questo argomento così, ho delle esperienze personali dove io sono separato, ho fatto tutto il mio excursus e sono riuscito ad avere il divorzio, però ho degli amici, conoscenti, e che comunque vada, vivono insieme, ma non sono più insieme da un po'. La ragione è quella che dice l'Istat. È il costo, fondamentalmente è il costo, perché e grazie a Dio non ho figli, quindi. Ma come ci si mette d'accordo? Si dice, senti, da oggi ognuno fa la sua vita, però non potendoci permettere altro. Ma rispetto naturalmente, perché non siamo bambini, hanno tutti più o meno la mia età, 47 anni, e quindi in casa non si porta nessuno, però si fa la propria vita e si vive la casa come universitari di un tempo. Ah, come gli studenti una volta che si dividevano gli stanze. Perfetto, perché molti. Solo che non si mette il fazzoletto sulla porta quando è occupata la stanza. Bravo, quello no. perché non si può occupare. Poi quando l'altro non c'è, magari se ne approfitta. Boh, no, questo sono cose loro. Però dico una cosa, perché molti hanno anche magari il mutuo, non riesco a vendere la casa perché in questo momento la situazione dell'edilizia è quella che è, allora sono costretti a pagare il mutuo e non hanno opportunità oppure uno stipendio tale che gli permetta di poter fare il salto necessario, e si scende a dei compromessi che purtroppo in queste statistiche lì non ci sono. E secondo lei è diffusa questa situazione? Sì, guardi che sinceramente non ne conosco più di uno. Sentiamo Margherita. Margherita, buongiorno. Grazie Antonello. Margherita. Buongiorno. Il suo punto di vista. Non sono separata e non sono divorziata. Però penso che... Spenga la radio però, Margherita. Ah, l'abbasso? Sì, no, spenga proprio, meglio. Ok, io penso che comunque sia una situazione questa che si ritorna ai tempi dei nostri padri e delle nostre madri, quando si sposavano, l'obiettivo che avevano era quello di vivere insieme, costruirsi una casa, allevare i figli, farli studiare. E oggi qual è l'obiettivo invece? L'oggi è la stessa cosa, nel senso che due persone che si amano, che si conoscono, che vogliono sposarsi, alla fine per una piccola difficoltà si vogliono separare, il deterrente è quello della crisi, dei soldi. Quindi stanno insieme di forza, come stanno insieme le nonne. Bravo! È quello che diciamo noi. Però l'obiettivo qual è? È quello di sopravvivere, di dividere le spese, di allevare i figli, di farli studiare, anche se ci sono delle problematiche. Poi chissà, questa pazienza che induce la coppia ad avere, come hanno avuto i nostri genitori, proprio a causa della crisi, potrebbe essere anche una crescita. Beh, la crescita, nel sacrificio e nella sofferenza, che crescita vuole che ci sia, scusi. È una coppia comunque. Vabbè, una coppia, se la coppia si scoppia, perché non sta assieme? Anche i nostri genitori sono scoppiati. Le nostre mamme, le nostre nonne subivano l'ira di Dio, i nostri nonni andavano al casino, andavano a puttane e finiva lì. Ecco. Così era, c'avevano sei famiglie parallele, non è che era una bella cosa. Ma non tutti così, cioè... Cioè lei crede nella famiglia come valore assoluto, sì, eterno? Io credo la famiglia nel valore assoluto. Vabbè, ma è lecito pensare. Sì, ma scusi, no, io rispetto assolutamente il suo punto di vista, ma valore assoluto deve essere anche una forzatura. Lei dice è un valore assoluto, va mantenuto anche a costo dell'infelicità, è così? No, va mantenuto con l'intelligenza e Ma se uno proprio si rompe le scatole, che odia l'altra persona? L'ha amata quando l'ha sposata, perché la devo odiare. Perché si cambia. Io quante persone ho amato nella vita e oggi vorrei manco vedere dipinte, scusi. Anche lei sarà successo. Ma chi lo dice? No. C'è una volontà superiore che ce lo impone. Però ad esempio la comunicazione è una cosa che manca. È una cosa che manca nella coppia, è una cosa che manca... Quando manca uno va a comunicare da qualche altra parte, non è mica obbligatorio. Vedi, però la libertà di dire posso separarmi quando voglio, divorziare quando voglio, non permette di usare quelli che sono gli strumenti di una coppia per comunque cercare di andare d'accordo, trovare un punto in comune. Io sono d'accordo che si debba tentare finché è possibile. Ci sono dei casi che sono d'accordo. Ma lei dice la coppia tutti... Vabbè, è un suo punto di vista, lei crede nel valore assoluto e sacro del matrimonio. Alcune coppie, porti a riflettere. Allora la separazione forzata. E a dire me lo piglio così com'è, perché deve star così. Va bene, devo dare il traffico, mi scusi. Melog. Cronache meridiane. (800) 24 0024, cosa ne pensate del rapporto Istat per cui gli italiani divorziano meno? Sì, ma divorziano meno non perché sia rinato il desiderio profondo di provarci, di tentare a tutti i costi tenere insieme il matrimonio, perché costa troppo, non se lo può permettere nessuno. Ne stiamo parlando con Gianetto Regassani, che è presidente dell'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani. Un'altra, diciamo, dei punti di vista espressi nel pezzo di Anna Chiara Sacchi su Corriere della Sera di oggi, che espone questo rapporto dell'Istat, è che probabilmente oggi si sposa in maniera più affrettata, magari la gente si conosce attraverso i social media, non c'è più questi tempi lunghi di fidanzamento, di conoscenza, di attenzione, quindi il matrimonio più frettoloso per questo finisce prima. Sei d'accordo, Gianettore? Sì, sono d'accordo, infatti la crisi del settimo anno è tornata di moda, in effetti sono raddoppiate le separazioni che avvengono al settimo anno. Ovviamente però nel censimento che facciamo prima dei divorzi bisogna anche considerare che oggi si sposa molto di meno rispetto al passato, per cui ci sono meno divorzi perché ci sono meno matrimoni, sono addirittura dimezzati i matrimoni rispetto al 1974, che erano 430.000 all'epoca, quindi diciamo che l'Italia sta cambiando, si divorzia di più, o meglio si divorzia di più fino al 2010. Adesso c'è un trend in flessione, ma non dimentichiamo che Sua Maestà il matrimonio sta in crisi purtroppo, perché non c'è una politica che serve ai giovani per sposarsi, per cui invece di discutere, come abbiamo fatto tante volte, su come rendere più difficile il divorzio, cerchiamo di incentivare il matrimonio. Sentiamo Fabrizio, che ha questa opinione, mi sembra. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno, io sono padre di tre figli e tra l'altro zio, dico, tanti nipoti e amici di gente che ha molti figli, e la cosa che mi fa un attimo meditare sulla statistica dell'Istat, che dice che ci sono sostanzialmente negli ultimi anni meno divorzi, io ne dico un'altra, una mia opinione chiaramente, no? Io vedo tutto nel mio gruppo di amici e parenti, ragazzi che hanno 28, 29, 30, 32, 33 anni, non se n'è sposato neanche uno, semplicemente convivono. Quindi è chiaro che se c'è questo modo di rapportarsi tra la coppia che si tende a non più sposarsi, o perlomeno a sostituire la convivenza col matrimonio, quando il rapporto si rompe non c'è più bisogno di fare la separazione. Faticano meno, essendo convivenza, essendo previdenti, vedendo le situazioni alle loro spalle, dicono stiamo assieme finché l'amore ci tiene assieme e poi dopo amici come prima, perché dobbiamo affrontare dei rischi. Certo, questo non tutela poi la parte più debole in questa coppia. Se uno si affida totalmente a una persona, si compra una casa assieme, si mettono insieme le risorse, poi sentirsi mettere alla porta da un giorno all'altro così a mani nude, forse probabilmente c'è qualche problema. Maria, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo aggiungere un altro punto di vista invece, che è questo. Secondo me è cambiata un po' la mentalità dell'italiano, nel senso che 50 anni fa il tradimento era un'offesa insopportabile da ripagare addirittura con il delitto d'onore. Era giusto, secondo lei? Era giusto, secondo me? No, poi si è passati a dire ma no, ma perché scusi, soltanto per il maschio però, solo per l'uomo? Sì, ho capito, però in generale poi si è passati ad accettare la separazione, però perché così almeno non si andava a uccidere il coniuge. Adesso invece non ci si separa neanche più, perché ormai il tradimento è diventato un'abitudine, una cosa normalissima. E quindi? Si separa solo nel caso in cui la terza o il terzo pretendono che l'amante non stia più col marito o con la moglie. Ormai piuttosto che separarmi gli faccio le corna anch'io, buonanotte suonatori. Che male c'è? No, nel senso che un motivo per cui ci si separa anche meno è anche questo cambiamento di mentalità. Diciamo, sono diventate meno pesanti da sopportare le corna, secondo lei. Una volta era le corna il motivo del matrimonio. Sì, una volta erano il motivo del divorzio, diciamo che per il 90% erano il motivo del divorzio, poi vabbè, c'erano casi in cui non si andava d'accordo perché non si vedeva. Ma io penso, questa è una mia statistica basata su dati familiari, personali, statistiche molto empiriche. Secondo me il livello di corna è sempre stato inalterato. È che, diciamo, una volta era qualcosa che di cui non si parlava o si fingeva di ignorare, o perlomeno c'era il cosiddetto cornuto inconsapevole, oppure il cornuto contento, o la cornuta naturalmente. Oggi non è, il termine corna è anche un termine brutto. Oggi si va verso una sorta di possibilità diffusa di sperimentare. Non so bene quale sia il motivo. Comunque sia, sento discorsi di testimonianze di amici che vivevano anche in gruppi sociali molto arcaici, che diceva guarda, noi in questo paesino della Calabria facciamo tutti galletti, ma ognuno era cornuto degli amici e facciamo cornuti gli amici con le mogli degli amici. Gianetto Regassani. Beh, insomma, sull'infedeltà tante cose sono cambiate, ma quando si arriva in tribunale sono dolori, perché tra investigatori privati, testimoni, risarcimenti del danno, addirittura la Cassazione ha sancito un risarcimento del danno da debito, quindi da corna, e soprattutto quando esse poi sono plateali. Beh, insomma, bisogna stare molto attenti, diciamo la verità. L'articolo 143 che parla di obbligo di fedeltà non è cambiato affatto, e i giudici spesso, quando ci sono prove eclatanti, sanzionano anche in maniera molto severa l'infedeltà coniugale. Ovviamente c'è tanta gente che non va dall'avvocato, non va più in tribunale se scopre di avere subito un'infedeltà, ma se si arriva in tribunale per parlare di questo, beh, sono dolori. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Ma io vorrei sapere come fa l'Istat a dare questi dati quando ormai anno su anno le separazioni e i divorzi sono il 55% dei nuovi matrimoni, quindi praticamente quasi 6 coppie su 10 sanno che si separeranno quando si sposano. Se poi pensiamo che il 75% delle volte è la donna che chiede la separazione, sia che ha fatto le corna sia che le ha subite, più delle volte le ha fatte ma le donne poi non vengono sanzionate, vorrei sapere perché non si parla di questo, dal momento che ci sono 4 milioni di padri separati. Di cui lei diciamo, è del partito dei padri separati, quelli vivono sotto i ponti. È una dolorosa occorrenza, però ognuno è anche vittima delle proprie scelte. Gianetto, una battuta sui padri separati, che ormai a ogni vostro convegno c'è sempre il rappresentante dei padri separati con i cartelloni, le magliette. Come la vedi? Ma io penso che comunque non si può dimenticare la tragedia di molti. Sì, è una tragedia, indubbiamente. È una tragedia, soprattutto perché quando si tratta di padri separati che fanno gli operai o gli impiegati di 1.000 euro al mese, sicuramente se non ci fosse la Caritas o altre organizzazioni, per loro sarebbe la morte, ma veramente la morte. Nemmeno la costrette nessuno col fucile in mano di sposarsi con la donna, onestamente. Sì, ma io, per carità, poi è difficile dare delle valutazioni. Credo che indubbiamente una tutela maggiore per la figura dell'uomo ci dovrebbe essere, perché a volte, lo devo ammettere come Presidente degli Avvocati Marino. Manca. Grazie Gianetto Rigassani, a domani.